Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io vorrei un'Italia che non sta con la testa ripiegata e striminzita, ma un'Italia che è capace di dare un messaggio di speranza e di fiducia. Diciamo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che oltre all'assertività, così possiamo dire, Renzi ha anche una certa creatività, ecco, ovvero alla ricerca di qualche sua espressione particolare. Oggi questa testa striminzita che non bisogna avere. Questo sarà uno dei temi oggi del suo viaggio negli Stati Uniti, da lì ancora ha fatto queste dichiarazioni, e poi parleremo di altri argomenti, tra cui Ebola, questo virus che sta mettendo molte vittime in Africa, che preoccupa un pochino, almeno così la gente comune, anche in Europa, anche in Occidente, e ci si chiede: può davvero contenersi questo virus, questa malattia, oppure con l'immigrazione può arrivare anche da noi, oltre naturalmente al dramma che stanno vivendo in Africa. I morti sono più di quanto si possa pensare. Ne parleremo dopo, ci sarà anche un virologo di fama mondiale. Quindi, se volete esprimere le vostre opinioni, sia attraverso i messaggi SMS al 349-238-6666, sia che vogliate invece intervenire sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ho già visto dei messaggi sull'articolo 18, questi sono i due modi per interagire. Quindi sull'articolo 18, di cui ancora parleremo, se avete delle domande su Ebola approfittate, visto che ci sarà intorno alle 21:30 questo esperto, oltre a Medici Senza Frontiere, però fatelo preventivamente, perché poi diventa difficile, mentre parlo con gli esperti, anche leggere contemporaneamente i vostri messaggi. Però intanto vediamo quali sono state le notizie principali di oggi. Il viaggio di Renzi, appunto, negli Stati Uniti. Per l'Italia serve una rivoluzione sistemica, ha detto, dice Renzi, PD spaccato sul lavoro, e Napolitano invita a politiche coraggiose. Crisi, nuovo allarme di Mario Draghi, il presidente della Banca Centrale Europea, all'Europarlamento ha detto la ripresa sta perdendo impulso. L'omicidio di Yara, per il RIS, il reparto speciale investigativo, è impossibile la diagnosi certa sulle tracce del DNA sui vestiti di Yara. Il delitto di Chiara Poggi, secondo indiscrezioni, la nuova perizia su Stasi dimostrerebbe che è impossibile che non si sia sporcato le scarpe avvicinandosi al corpo della fidanzata. Terrorismo, ISIS contro tutti, nuovo messaggio audio, uccidete tutti i miscredenti in qualche modo, questo è l'appello di ISIS, del movimento integralista. In Iraq intanto sempre provocato da ISIS una strage di soldati, 300 uccisi col gas. La tragedia a Rovigo, 4 operai morti per l'esalazione di un acido, e poi Verdini rinviato a giudizio per finanziamento illecito per un palazzo. Arrestato Gianni Acarogna, il capo degli ultras di Napoli, del Napoli, istigò la curva alla violenza. E poi un compleanno speciale, gli 80 anni di Ornella Vanoni e Gino Paoli, coppia inossidabile anche nel compleanno. E partiamo quindi dal viaggio di Matteo Renzi negli Stati Uniti, lì ha incontrato ricercatori universitari italiani, poi giovani imprenditori della cosiddetta Silicon Valley, la Valle del Silicio, per congratularsi prima, poi naturalmente per provare ad acquisire anche nuove ricette di come possono aver fatto a creare queste imprese lì negli Stati Uniti, e poi anche possibilmente per attirare investimenti. Però tra poco ci colleghiamo direttamente con gli Stati Uniti per sentire un po' come è andato questo incontro, come è andato per ora questa prima tappa del viaggio. Intanto in Italia continua molto acceso, dicevo, il dibattito sul lavoro, sull'articolo 18, che sta creando delle fortissime tensioni, prima di tutto già all'interno proprio del PD, e anche dagli Stati Uniti, come avete sentito, Renzi torna all'attacco. Promette di cambiare l'Italia anche da oltreoceano. Matteo Renzi in visita a San Francisco, il premier torna al dibattito sul lavoro in corso a Roma, con gli scontri all'interno del PD e con la CGIL, così Renzi. Faremo di tutto per cambiare l'Italia, per renderla quello che è sempre stata e che deve essere per noi, deve un paese più semplice, un paese con un mercato del lavoro diverso, con una classe politica che sia dimagrita e di cui non vergognarsi, con un sistema istituzionale della pubblica amministrazione. Per il sottosegretario Graziano Del Rio la riforma del lavoro supera di fatto l'articolo 18, mentre più pungente verso la minoranza Dem è il sottosegretario Luca Lotti, che ha perso le primarie e non detta la linea. Domani la riunione dei dissidenti, Alfredo Dattorre risponde: l'articolo 18 non era nel programma delle primarie di Renzi. La CGIL intanto annuncia battaglia, così Susanna Camusso. Un governo non dovrebbe mai cercare la rottura, in particolare con quel mondo del lavoro che rappresenta l'unica speranza di uscita della crisi di questo paese. Faremo sicuramente delle mobilitazioni, noi ci auguriamo che siano unitarie, e comunque le faremo. Per Beppe Grillo invece il Premier ha cambiato idea sotto ricatto della BCE. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di lavoro ha parlato anche il Presidente della Repubblica Napolitano, parlando al Quirinale ai giovani riuniti per la cerimonia dell'inaugurazione dell'anno scolastico. L'Italia e l'Europa sono alle prese con una profonda crisi economica e sociale, ha detto Napolitano, possono uscirne solo insieme con politiche nuove e coraggiose per la crescita e l'occupazione. Il Capo dello Stato ha poi lanciato un appello al rinnovamento del Paese. Insieme dobbiamo rinnovarci, metterci al passo con i tempi e con le sfide della competizione mondiale. Specialmente in Italia dobbiamo rinnovare decisamente le nostre istituzioni, le nostre strutture sociali, i nostri comportamenti collettivi. In questo paese che amiamo non possiamo più restare prigionieri di conservatorismi, corporativismi e ingiustizie. E sempre a proposito di crisi, il governatore della Banca Centrale Europea, il presidente Mario Draghi, parlando all'Europarlamento, ha detto che la ripresa nell'Eurozona sta perdendo slancio. Ha sollecitato a dar vita quindi a riforme che consentano alle imprese di tornare a investire per creare lavoro e puntare sulla crescita. Se all'inizio dell'anno tutti avevano sperato nei timidi segnali di ripresa dell'area euro, adesso tocca fare i conti con una crescita più bassa del previsto. La conferma arriva dalle parole del governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che parlando all'Europarlamento ha dipinto un quadro tutt'altro che ottimista. La ripresa nella zona euro sta perdendo impulso, ha detto Draghi. La crescita del PIL si è fermata nel secondo trimestre e le condizioni economiche sono più deboli del previsto. Da qui l'invito agli Stati a mettere in atto riforme strutturali che, se insufficienti, possono pesare sugli investimenti. Per porre fine alla crisi bisogna tornare ad avere fiducia nell'economia, ha spiegato il numero uno dell'Eurotower. Le imprese devono tornare ad assumere rischi, investire e creare lavoro. Per consentire tutto questo gli Stati devono fare la loro parte, individuare le priorità orientandole alla crescita, dando la precedenza a una riduzione della pressione fiscale e agli investimenti. E nel patto di stabilità, ha aggiunto Draghi, ci sono margini di flessibilità per tutti. In merito alle ultime misure di politica monetaria, il governatore della BCE ha sottolineato come sia presto per valutare l'impatto dei TLTRO. L'assegnazione di liquidità a basso costo alle banche nella prima tornata è stata inferiore alle attese, ma secondo Draghi era tutto previsto. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo a due notizie che sono arrivate in serata su due fatti di cronaca e due delitti molto conosciuti, insomma, l'omicidio di Iara e il delitto di Garlas. Cominciamo dall'omicidio di Iara. Il RIS, il reparto speciale dei carabinieri, ha detto che non è possibile una diagnosi certa sulle tracce del DNA. Una logica prettamente scientifica che tenga conto dei non pochi parametri che si è tentato di sviscerare in questa sede non consente di diagnosticare in maniera inequivoca le tracce lasciate da Ignoto 1 sui vestiti di Iara. Questo è uno dei punti della relazione del RIS su cui poggia l'istanza di scarcerazione rigettata in questi giorni dal GIP dei legali di Bossetti. Cioè i legali di Bossetti hanno fatto un'istanza, richiesta di scarcerazione basandosi su questa affermazione dei RIS. E poi il delitto di Garlasco. È quasi impossibile che Alberto Stasi, il 13 agosto 2007, quando entrò nella villetta di Via Pascoli e scoprì il corpo senza vita della sua fidanzata Chiara Poggi, non abbia intercettato, cioè non ci sia macchiato di sangue sul pavimento. Non si discosta se non nelle percentuali ancora più basse stabilite dalla perizia di primo grado. L'esito della nuova sperimentazione virtuale sulla camminata di Alberto, chiesta dai giudici nel nuovo processo di secondo grado nel quale l'ex studente bocconiano risponde di omicidio della sua ex fidanzata. Cioè questa indiscrezione, che domani poi dovrebbe essere o confermata o smentita, dimostrerebbe ulteriormente che Stasi sarebbe innocente. Comunque aspettiamo domani. Adesso le notizie dall'estero. Minacce in un messaggio audio da parte dell'ISIS, il movimento integralista islamico. Le vostre donne saranno schiave, conquisteremo la vostra Roma, spezzeremo le croci. Questa è l'ultima minaccia audio dell'ISIS. E in Iraq alcuni deputati iracheni della provincia di Al-Anbar hanno affermato che circa 300 soldati sono stati uccisi dai jihadisti dell'ISIS. Torniamo in Italia. Il senatore di Forza Italia, Denis Verdini, ha ricevuto un avviso di garanzia per finanziamento illecito ai partiti. Verdini si chiama fuori da questa vicenda legata alla compravendita nel 2001 di un palazzo in via della Stamperia a Roma. Storie di politici, soldi e palazzi romani. La vicenda è quella legata a una plusvalenza di oltre 18 milioni di euro nella compravendita di un immobile nel 2011 in via della Stamperia, nel cuore di Roma. A riguardo è spuntato anche il nome del senatore di Forza Italia Denis Verdini. Io con i fatti di via della Stamperia non c'entro nulla, dice Verdini. L'avviso di garanzia che ho ricevuto riguarda l'accusa di finanziamento illecito ai partiti e da cui dimostrerò la mia totale estraneità. Secondo la procura, Verdini non ebbe alcun ruolo nella compravendita, ma pochi giorni dopo avrebbe ricevuto la cifra di 1 milione di euro dal collega di partito Riccardo Conti. Nel gennaio 2011 Conti, a cui ha contestato il reato di truffa aggravata, acquistò con la sua società il Palazzo Romano per 26 milioni di euro, per poi rivenderlo poche ore dopo a oltre 44 milioni di euro all'ENPAP, l'ente di previdenza degli psicologi. Il Partito Democratico per ora tace sulla vicenda, mentre il Movimento 5 Stelle ad andare all'attacco. Il grillino Alessandro Di Battista su Facebook: aprite gli occhi, questa è la gente che sostiene Renzi. Federico Fumagalli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dobbiamo parlare adesso di una nuova tragedia sul lavoro. In Veneto, 4 operai sono deceduti per l'esalazione di un acido. Sarebbe stato un mix incontrollato di acido solforico e ammoniaca a provocare la morte di 4 persone nella ditta di Adria, in provincia di Rovigo, la Co.Im.Po. Un'azienda di 15 dipendenti che opera da 20 anni nello smaltimento dei rifiuti speciali e che non ha mai dato problemi, spiega il sindaco del paese Massimo Barbujani, che ha proclamato il lutto cittadino. Secondo una prima ricostruzione, gli operai avrebbero gettato dell'acido solforico in una vasca che molto probabilmente conteneva già ammoniaca, una miscela che avrebbe provocato le esalazioni fatali. 4 sono morti sul colpo, mentre una 5ª persona è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Ora toccherà alla procura di Rovigo accertare se vi siano stati errori o omissioni e se siano state rispettate tutte le normative sulla sicurezza. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha definito l'incidente una delle tragedie più devastanti per il mondo del lavoro in Veneto. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca. 2 persone che erano a bordo di un velivolo ultraleggero precipitato nei pressi dell'aeroporto La Pila, all'isola d'Elba, sono morte. L'incidente, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, sarebbe avvenuto in fase di atterraggio. Ed è finito in manette il capo ultra del Napoli, Gennaro De Tommaso, meglio noto, l'avete sentito tante volte, come Jenny Acarogna, protagonista degli scontri del prepartita di finale di Coppa Italia in cui perse la vita, vi ricordate, Ciro Esposito. Scritte inneggianti alla violenza e resistenza a pubblico ufficiale sono solo alcune delle accuse che hanno portato all'arresto di Jenny Acarogna, al secolo Gennaro De Tommaso, il capo ultra del Napoli ritenuto al centro di presunte trattative in relazione alla prosecuzione della finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma il 3 maggio scorso tra i partenopei e la Fiorentina, in una notte segnata da incidenti, scontri e dal ferimento del tifoso napoletano Ciro Esposito, poi morto dopo 50 giorni d'agonia. Insieme a Jenny Acarogna sono stati arrestati altri 4 ultra del Napoli, ma per la procura di Roma è stato proprio lui, Jenny, il regista di quanto accaduto all'interno dello stadio, seppure gli inquirenti neghino che vi sia stata una trattativa tra il capo ultra e le autorità per far disputare comunque la gara. Il capo della Digos di Roma, Diego Parente. Ovviamente a capo di tutti c'era De Tommaso e, diciamo, la visione complessiva di video permette chiaramente di stabilire la sua leadership, il suo comando e quindi la sua responsabilità. Tra i motivi dell'arresto anche la maglietta con la scritta Speciale Libero, indossata quella sera da De Tommaso e inneggiante al ragazzo condannato per la morte dell'ispettore di polizia Filippo Raciti nel 2007. Un provvedimento, quello dell'arresto, che ha suscitato la reazione dei familiari di Ciro Esposito. Gianni Acarogna ha evitato una strage, dovrebbero ringraziarlo e invece l'arrestano, fanno sapere i parenti di Esposito chiedendo la verità sull'omicidio di cui è accusato l'ultra romanista Daniele De Santis. Dario Ricci, Radio 24. Il Sole 24 Ore. Bene, finisce qui questa prima parte di Effetto Notte. Lo sapete, tutte le sere, da lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, se avete, volete avere un quadro esaustivo della giornata e poi approfondimento con diversi ospiti in diretta. Tra poco comincio, dopo la viabilità, a sentirli. Vi ricordo che potete mandare i vostri messaggi, gli sms al 349-238-6666 oppure utilizzare la pagina Facebook di Effetto Notte. Lì vedo diversi messaggi sull'articolo 18, ne leggo diversi su vari argomenti invece qui sugli sms. Tra poco avrò anche, vi dicevo, in diretta un grande esperto di malattie dei migranti, delle migrazioni e in particolare anche di Ebola. Dice Franco invece sull'articolo 18 e Renzi: il nuovo paladino dei più deboli dimentica di quelle madri che vengono licenziate perché incinta grazie ai licenziamenti in bianco che il suo governo poteva evitare inserendo la legge contro licenziamenti in bianco. E questo è vero, ce l'ha detto anche un po' Matteo Orfini, però presidente del PD, qualche giorno qui a Effetto Notte, che lui metterebbe anche questo emendamento, insomma, a correggere questa legge, quella dei licenziamenti in bianco. Poi invece c'è Tina, mi sembra, dice: bene, l'ennesima commissione si è seduta al tavolo di lavoro per tirar su quella melma che sta lentamente inghiottendo questa bella Italia. Ecco, a proposito, forse immagino sì, di questa diatriba sull'articolo 18. Poi Silvia invece parla di Ebola e dice: credo proprio che Ebola arriverà da noi presto o tardi, questi flussi migratori così enormi e controllati finiranno per trasportare il virus. Poi cercheremo di capire appunto se sono le nostre paure in realtà incontrollate e irrazionali. Poi molti altri messaggi, però tempo per leggerli a dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ne avrete anche stasera da sentire di notizie, intanto però vi riassumo brevemente quelle principali dopo la pausa che abbiamo fatto, così se avete acceso in questo momento o se le volete risentire, e poi cominceremo a affrontare i primi argomenti con gli ospiti. Leggo ancora i vostri messaggi al 349-238-6666. Dice un ascoltatore o ascoltatrice di chiedere per favore al virologo che ci sarà tra poco su Ebola se sia vero che l'incubazione è di 21 giorni. Qua una cosa molto dettagliata, però poi chiederò anche questa cosa. Intanto i titoli. Il viaggio di Renzi negli Stati Uniti: per l'Italia serve una rivoluzione sistemica, dice il Presidente del Consiglio. C'è il PD spaccato sul lavoro, come avete sentito, e Napolitano invita a politiche coraggiose. L'allarme di Mario Draghi all'Europarlamento: la ripresa in Europa sta perdendo impulso. L'omicidio di Yara: per il RIS è impossibile la diagnosi certa sulle tracce del DNA sui vestiti di Yara. E poi il delitto di Chiara Poggi: secondo indiscrezioni, la nuova perizia su Stasi dimostrerebbe che è impossibile che non si sporcasse le scarpe avvicinandosi al corpo della fidanzata. Terrorismo: ISIS contro tutti, c'è un nuovo messaggio minaccioso, audio: uccidete tutti i miscredenti in qualsiasi modo. Una tragedia del lavoro a Rovigo: 4 operai morti per l'esalazione di un acido. Poi Verdini è rinviato a giudizio per finanziamento illecito per un palazzo e arrestato Jenny Acarogna, il capo degli ultra del Napoli che istigò la curva alla violenza. Oh, e adesso parliamo del viaggio negli Stati Uniti del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Un viaggio negli Stati Uniti che è iniziato come prima tappa dall'Università di Stanford e poi la cosa che più, insomma, più coinvolgente, che può essere più interessante, più curiosa, è che ha fatto visita a una serie di incontri alla Silicon Valley, il cuore in California, vicino a San Francisco, la culla, diciamo, dei computer, dei software, dei servizi per la rete, dove ci sono Yahoo, dove ci sono i nomi più conosciuti, insomma, di internet. E c'è per noi, al seguito del presidente Renzi, il corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti, Mario Platero. Mario, dove ti trovi in questo momento? Eccoci. Beh, non so se sentite attraverso il microfono il rumore del mare, delle onde, perché sono davanti al Golden Gate da una parte e a destra Alcatraz, la vecchia Alcatraz. Il Presidente del Consiglio ha appena lasciato lo Yacht Club e sta continuando a fare le sue visite, come tu dicevi, qui a Silicon Valley. Forse quella di questa mattina è stata la più importante, la più interessante, perché si è visto con gli start-upper, diciamo, italiani. Ricercatori, imprenditori, che mettono su aziende che sono nascenti, insomma. Direi imprenditori più che ricercatori. Sono degli imprenditori che con un'idea hanno impacchettato il loro zaino e o con una borsa di studio oppure con un biglietto di sola andata, come dico spesso nella mia trasmissione, sono venuti in California. E devo dire, molti di loro hanno avuto successo, le cose sono andate bene, hanno trovato i capitali, hanno trovato l'ambiente giusto per lavorare, sia dal punto di vista intellettuale che da quello del mercato, e hanno dato un feedback al Presidente, e il Presidente su questo ha capitalizzato, e devo dire è la prova concreta che quello che lui propone di fare, liberalizzare, muoversi, creare un po' di movimento in Italia, è molto necessaria. E infatti direi il momento chiave dal punto di vista della notizia è stato quando il Presidente del Consiglio ha detto: io voglio cambiare le cose, farò arrabbiare qualcuno, ma qualcuno si arrabbierà, è arrivato il momento di far arrabbiare qualcuno. Dunque lui va avanti lungo la sua strada e devo dire che se quella strada lungo la quale ci stiamo imboccando è una strada che porta anche in modo vago vicini a quello che abbiamo visto qui, beh, vale la pena di provarla. Anche se bisogna dire, Mario Platero, lì lui è andato a trovare degli italiani, famosa fuga di cervelli, dei cervelli fuggiti, diciamo, da qui, perché evidentemente non c'erano le condizioni, sono andati lì a creare il loro startup. Cosa ha fatto lui? Ha preso appunti. Cosa, Roberta, sì. Non ci sono cervelli in fuga. No. Questo sono stati catturati ad Alcatraz, dove ti trovi, no? Questo mito del cervello, come, scusa? Sono stati catturati lì ad Alcatraz, vicino dove ti trovi, no? Non sono lì dentro. No. Questo mito del cervello in fuga è un mito che va cambiato, non esiste, non c'è il cervello in fuga. Ci sono degli italiani che lavorano nell'economia globale, ci sono degli italiani che a un certo punto diventano le nostre antenne, perché se tu li vedevi questi ragazzi sono profondamente italiani, chi viene dalla Valtellina, chi viene da Taranto, chi è legato al nostro paese, ma diventano degli ambasciatori, non dei cervelli in fuga. Nell'economia globale c'è soltanto la possibilità di poter lavorare in modo collettivo, se abbiamo il complesso di avere i cervelli in fuga perché vogliamo tenerli in Italia non si può, invece questi ragazzi sono venuti qui e pensa, da qui poi hanno rimbalzato dei posti di lavoro in Italia, perché hanno creato poi delle imprese italiane, perché ci sono dei cervelli che poi in Italia restano e lavorano molto bene. No, infatti questo mi chiedevo, perché Renzi è contento di trovarli lì, ma probabilmente li vorrebbe a casa, se però dici che hanno creato posti di lavoro. No, guarda, proprio è stato chiarissimo su quello. Ha detto non li voglio a casa, e questo è il punto che noi dobbiamo cambiare. Cioè da questa gabbia da cui dobbiamo uscire, Renzi stesso, credo sia una grande fortuna per noi, l'ha capito, ha detto io voglio che voi restiate qui, che voi facciate le cose che facciate qui, perché siete i nostri ambasciatori, perché siete quelli che diventano le antenne avanzate per il nostro paese e che ci consentono poi di portare indietro delle esperienze. Ecco, questo lo speriamo, speriamo anche che Renzi porti molte idee al suo ritorno dagli Stati Uniti, allora, Mario Platero. Spero di sì, qualcuna già ce l'ha detta oggi e vedremo se riuscirà ad andare avanti. Grazie Mario Platero, ti lasciamo allora al Golden Gate, a questo paesaggio così suggestivo. Ciao Mario. E invece dagli Stati Uniti ritorniamo sulle questioni italiane, ma in realtà è tutto un collegamento, dato che Renzi da lì ha parlato soprattutto d'Italia e con degli italiani. Adesso vorrei invece parlare con Alberto Rioli. Ciao caro Alberto. Buonasera a tutti voi. Sempre di questioni che riguardano il nostro stato di difficoltà, la situazione di stallo, la volontà di cambiare, ma bisogna vedere, appunto, Napolitano dice con politiche coraggiose, vediamo un po', perché c'è sempre in ballo lo scontro molto forte sull'articolo 18. Poi c'è il nuovo allarme di Draghi, abbiamo detto oggi all'Europarlamento, ha detto che la ripresa in Europa sta perdendo impulso, e poi l'Istat che rivedendo un po' i criteri per valutare i nostri conti pubblici sembrerebbe darci un margine, insomma, di respiro. Poi ci spiegherai tu bene in cosa consiste. Partiamo dall'allarme di Draghi? D'accordo, partiamo dalle buone notizie, che mi sembrano tutte buone notizie. Esatto, è tutto un Alcatraz, parliamoci chiaro per mantenere la continuità con quanto si diceva prima. Draghi ha fatto un discorso molto preciso, anche molto pungente a tratti al Parlamento europeo, e ha sottolineato ancora una volta come la ripresa dell'Europa sia debole e sia più debole di quanto fosse prevedibile, e con anche rischi di peggioramento. Quindi se il motore dell'Europa si imballa, effettivamente sono guai per la parte debole dell'Europa, che poi saremo noi. Il messaggio, insomma, è stato molto chiaro, però ha anche detto che effettivamente a fronte di un ulteriore peggioramento la BCE è pronta a fare tutto quello che serve. C'è di nuovo lo slogan di Draghi, che così tanto successo ha avuto sui mercati in varie edizioni in cui lui lo ha detto. Quindi effettivamente ha lasciato intendere che non è finita qua l'operazione sulla liquidità, così come è stata articolata in questo, come è articolata in questo periodo. E quindi da questo punto di vista c'è l'altra faccia della medaglia, che è positiva, perché a fronte di un peggioramento la BCE non lascerebbe chiaramente l'economia da sola. Invece per quanto riguarda l'Istat, per quale motivo adesso l'Istat sta rivedendo i criteri per valutare i conti pubblici, quindi il deficit e il debito pubblico, e sembrerebbero adesso i dati migliorare con questa revisione dei criteri? Sì, esatto, questa è un'imposizione di un nuovo sistema di calcolo europeo, si chiama SEC 2010. ed è il nuovo modo con cui si calcolano i conti nazionali dei vari paesi aderenti all'Europa, e noi quindi ci siamo adattati al nuovo sistema di calcolo, anche se ci sono poi delle flessibilità adattative, dicono gli statistici, di ogni singolo stato, e quindi probabilmente noi le abbiamo anche usate. Ma è vero che ci sono anche i ricavi della prostituzione, della malavita? Sì, ai noi sì, c'è anche sì, quanto rende il gioco d'azzardo e quanto fa girare l'economia il mondo della prostituzione, purtroppo, ma è anche, non è quello in realtà, per fortuna, che ha fatto modificare i parametri del 2013, ma è piuttosto un nuovo calcolo degli investimenti in ricerca e quant'altro. Comunque non entriamo nelle meticolosità statistiche, nelle loro nuove metodologie, anche perché nel dettaglio poi non le conoscerei neppure io, quindi. Ecco. Però insomma i dati sono migliorati, quelli di partenza del 2013, è una consolazione abbastanza lieve per la verità, perché poi la tendenza resta uguale, quindi purtroppo l'anno successivo, cioè questo, il 2014, non promette niente di buono con il PIL rivisto o non rivisto, quindi non è con questo che cambieremo il volto alle cose dell'economia nostrana. Insomma. E non so quanto prometta di buono anche tutta questa tensione sulla riforma del lavoro, sull'articolo 18. Allora la ministra Boschi oggi ha detto al PD: dimostriamo che siamo uniti una volta tanto. Il presidente di Confindustria Squinzi ha detto: l'abolizione dell'articolo 18 sarebbe un segnale forte, però, come sappiamo, ne abbiamo parlato varie volte, no, Alberto Orioli, di queste spaccature all'interno del PD, dei sindacati sul piede di guerra e di anche un'Italia un po' spaccata, diciamo, come opinione pubblica. Ti leggo giusto velocemente qualche messaggio dalla pagina Facebook di Effetto Notte. Floriano scrive: l'articolo 18 è assolutamente una bandierina da sventolare per i sindacati e per quei politici che cercano una piccola rivincita nei confronti di chi vuole contrastare coloro che lo hanno battuto alle primarie, quindi immagino che si riferisca a Bersani. Poi c'è invece Andrea che dice: bisogna mandare a casa questo governo, da cittadino sono stanco di essere preso in giro, non bisogna cambiare l'articolo 18, ci vogliono idee nuove per creare posti di lavoro nuovi. Ma e tra l'altro mi chiedo, si parla di un contratto a tutele crescenti, no? Però mi sembra di aver capito che fino ai primi 3 anni si può licenziare tranquillamente e poi man mano queste tutele crescono, ma se si continua a licenziare entro quei 3 anni, queste tutele vengono ammazzate direttamente in culla, quindi non hanno tempo di crescere. Per la verità il termine 3 anni è fuorviante, perché allora si tratterebbe di un'applicazione mascherata di un contratto a termine, perché adesso i contratti a termine possono durare 3 anni, all'interno di questi non c'è l'articolo 18, quindi probabilmente si tratterebbe di un periodo più lungo. Ma proviamo a uscire a rappresentare la discussione con un'altra tavolozza, diciamo così. Proviamo a immaginare di voler costruire il migliore dei mercati del lavoro del mondo, che è quello dove effettivamente un giovane o un meno giovane perde un lavoro o decide di cambiarlo e dopo poco tempo, siccome si è rivolto all'ufficio, all'agenzia del lavoro che sta sotto casa, che lo forma, che gli dice quali sono gli sbocchi possibili per il suo profilo di curriculum e eventualmente lo aiuta a rinforzarlo con un corso di formazione abbinato, lo ritrova entro un mese, 2 mesi o quello che è. Durante questo tempo percepisce un sussidio nazionale che gli consente appunto di sbarcare il lunario più o meno secondo lo standard economico che aveva appena perso. E immaginiamo appunto che la vita lavorativa d'ora in poi sia fatta da una serie di spezzoni di lavoro che crescono con il crescere poi dell'età e dell'anzianità anche professionale delle persone. Quindi l'attenzione da porre è quella sulle cosiddette politiche attive, cioè bisogna creare un sistema che effettivamente faccia incontrare domanda e offerta di lavoro in modo congruo, in modo razionale. E produca lavoro anche, e no? Produca perché lavoro. Il produrre lavoro, non, ecco, questo è giustissimo, ma il produrre lavoro non è il tema delle regole sul lavoro, perché non sono le regole sul lavoro, siano esse le più restrittive del mondo e le più liberali del mondo, a produrre effettivamente appunto, il lavoro. Appunto, quindi ci dobbiamo occupare di regole di lavoro o come produrre il lavoro? Perché dobbiamo se noi occuparci di entrambe le cose, perché per produrre il lavoro devi fare gli investimenti, devi creare un humus favorevole al mondo dell'impresa e cambiare probabilmente anche una caratura culturale che per troppo tempo ha visto l'impresa come un nemico, come qualcosa di fastidioso. Le imprese sono amiche, sono fondamentali, sono le benvenute per creare ricchezze, per creare posti di lavoro, ed è per questo che bisogna creare un sistema di regole che sia a loro confacente, diciamo così. E siccome l'articolo 18 per tanto tempo è diventato un simbolo in realtà di un sistema di regole e di cultura, direi, anti-impresa, è venuto a maturazione questo tabù è che effettivamente l'impulso riformista renziano intende abbattere. L'errore che si farebbe è di creare di nuovo una guerra, uno scontro di religione, uno scontro ideologico tra le due anime della sinistra, magari con un'idea di una parte della sinistra più moderata di una vendetta, diciamo così, rispetto a quella più radicale. Non avrebbe senso riprodurre, ecco, diciamo così, lo scontro violento che ci fu ai tempi del referendum sulla Scala Mobile, tanto per dire, quando si scontrarono Craxi e Berlinguer. Ecco, quel tipo di scontri non servono più a niente. C'è un modo di convergere, probabilmente c'è un modo anche di trovare soluzioni intelligenti, perché comunque speriamo nelle soluzioni intelligenti. Alberto Rioli, tanto avremo modo di parlarne tante volte insieme, finché si arriverà mai a una conclusione. Bene. Grazie Alberto Rioli. Buona serata a tutti. Grazie, ciao. Ci dobbiamo proprio fermare che siamo un po' in ritardo, poi parleremo di Ebola tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Prima di cominciare a parlare di Ebola, dell'allarme che riguarda l'Africa e capire anche un po' i contorni di questo virus, vi ricordo quali sono le notizie principali di oggi. Napolitano e Renzi che chiedono coraggio all'Italia, serve una rivoluzione, dice il Presidente del Consiglio, per cambiare. E poi Napolitano dice basta ai conservatorismi. E poi PD spaccato sul lavoro, la minoranza minaccia la rottura. Squinzi spinge sull'articolo 18 e dice sarebbe un cambiamento importante. L'allarme di Draghi, Presidente della Banca Centrale Europea, la ripresa stenta, dice attuare le riforme è assolutamente necessario. E poi ancora l'ISIS, il movimento integralista islamico che minaccia in un nuovo audio: conquisteremo la vostra Roma, spezzeremo le croci, intanto incita a uccidere i miscredenti in giro per il mondo. Poi la tragedia sul lavoro vicino Rovigo, soffocati dai vapori tossici, muoiono 4 operai nel Rodigino, nube di anidride solforosa da una cisterna. Verdini a giudizio per il finanziamento illecito per un palazzo. E poi il caso Iara, i RIS, non è possibile una diagnosi certa sulle tracce del DNA, e questa è nell'istanza dei legali, l'istanza, la richiesta di scarcerazione. E adesso, appunto, come vi avevo annunciato, parliamo di Ebola, perché c'è l'allarme dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice in Africa sono morti finora 2793, sono morte 2793 persone su 5762 casi. E l'epidemia di Ebola che sta mietendo molti morti nell'Africa occidentale, lo afferma l'ultimo bilancio dell'organizzazione. La Liberia è il paese più colpito, con 1578 morti su 3022 casi. E c'è anche la denuncia, l'allarme di Medici Senza Frontiere, questa organizzazione di operatori sanitari che lavorano in tutto il mondo, spesso in situazioni difficilissime di conflitto, che dicono che questa risposta che si dà nella comunità mondiale è inadeguata, siamo al limite. Allora saluto intanto Loris De Filippi, che è presidente di Medici Senza Frontiere. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. Ci dà un po' i contorni di questa emergenza in Africa, De Filippi? Sì, è un po' i dati li ha citati lei. Sono 6 mesi che questa epidemia è stata dichiarata e effettivamente finora l'intervento è stato altamente inadeguato dal nostro punto di vista. Il numero di vite umane che si perdono è altissimo. Pensi solo che quando stavamo preparando il comunicato stampa pochi giorni fa le vittime erano meno di 2500, oggi stiamo raggiungendo le 2800 e purtroppo siamo costretti a rimandare indietro le persone che arrivano ai cancelli dei nostri 5 centri. Finora abbiamo 5 centri che possono trattare 540 persone, quindi 540 posti letto, e effettivamente non sono sicuramente sufficienti. Per questo motivo abbiamo chiesto alla comunità internazionale di intervenire per 2 volte, cosa abbastanza inusuale per noi. Abbiamo sollecitato l'intervento rapidissimo delle Nazioni Unite. Finora ovviamente ci sono delle promesse, come quelle di Barack Obama, di inviare del personale, ma non ci sono cose molto concrete e chiare sul terreno, insomma. Saluto anche il professor Aldo Morrone, benvenuto anche a lei, professor Morrone. Buonasera, che grazie a tutti voi. Primario di Regina Elena Istituto San Gallicano e poi a capo del Dipartimento Medicina dell'Immigrazione, Malattie Tropicali e soprattutto virologo di fama mondiale. Che virus è questo di Ebola? Se ne era parlato già, se non sbaglio, qualche anno fa, però adesso che sale prepotentemente alle cronache, come mai? È un paradosso, il virus è uno dei virus facilmente aggredibili e che può essere distrutto facilmente da acqua e sapone, candeggina, raggi solari, e paradossalmente però nel momento in cui colpisce persone che si ammalano diventa estremamente contagioso nei soggetti che sono a contatto con i liquidi biologici di queste persone, sangue, quindi feci, urine. Devo dire che è un grande paradosso, perché è dal 76 che conosciamo il virus, è dal 76 che periodicamente abbiamo queste situazioni drammatiche, non in Africa occidentale, ma che le istituzioni sanitarie internazionali e politiche hanno mostrato sostanzialmente una grande indifferenza nei confronti di persone che purtroppo siamo abituati a sapere che muoiono per questo tipo di infezioni. Loris De Filippi, presidente di Medici Senza Frontiere, sentito, è una denuncia abbastanza impietosa questa di Morrone, cioè si conosce da tanto, si sarebbe già potuto fare molto, invece? Invece finora ovviamente le epidemie toccavano delle zone assolutamente così remote del pianeta e generalmente si autolimitavano nel corso di pochi mesi, facendo pochissime vittime, facendo solo alcuni casi, ed è stata una patologia assolutamente che nessuno ha seguito come avrebbe dovuto. Noi l'abbiamo denunciato a più riprese in svariati anni, e in questa situazione però siamo davanti a una situazione assolutamente nuova. Cioè, rispetto alle situazioni precedenti, questa epidemia ha colpito delle città molto grandi come Freetown, soprattutto come Monrovia, la capitale della Liberia, e in questo momento la situazione è assolutamente fuori controllo, anche perché le strutture sanitarie sono collassate, il sistema sanitario intero della Sierra Leone e della Liberia, che è già precario ovviamente per vari motivi, in questo momento sono al collasso totale, e per questo non parliamo solo di crisi Ebola, ma di vera crisi umanitaria in senso più generale. Ma quello che vi fa dire Loris De Filippi che è fuori controllo, nel senso che si sta aprendo ad altri stati, nel senso sta passando oltre i confini degli stati da dove maggiormente i focolai sono... Fino a questo momento sta interessando appunto l'Africa occidentale, fuori controllo in città come Monrovia, nella quale appunto non si riesce più a in qualche maniera a dare delle risposte nei centri di trattamento per l'Ebola, per cui spesso, rimandando a casa il paziente infetta a sua volta i parenti o le persone che gli stanno vicino, e questo è il grande problema. Per questo abbiamo in qualche maniera spinto le Nazioni Unite non tanto a inviare degli infettivologi, degli epidemiologi di fama mondiale, ma delle persone in grado in qualche modo di mettere in piedi questi centri, isolando le persone e soprattutto rintracciando quali sono i contatti della persona che è venuta in contatto a sua volta con il virus dell'Ebola, e limitando il problema. Professor Aldo Morrone, quindi lei diceva che paradossalmente potrebbe essere un virus facile da sconfiggere, però una volta che comincia ad attaccare persone malate poi passa di persona in persona attraverso i liquidi fisiologici. Però diamo una buona notizia, però condivido l'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere, condivido l'allarme che viene sottolineato giustamente, però intanto questo è un virus che sta riducendo la carica virale, nel senso che i dati che lei ha dato dimostrano, effettivamente sono veri, che muore il 50% delle persone colpite dall'infezione, e questo già è ottimo, perché prima moriva il 90%, 80%, prima notizia buona. Seconda notizia buona, va detto con molta chiarezza, che le persone infettate dal virus e che non si ammalano e che non muoiono, il cui sangue diventa importante per essere utilizzato come strumento per la ricerca di sieri o di vaccini, sono persone che non infettano le altre persone. Cioè sono i cosiddetti portatori che non infettano gli altri, quindi questa è l'altra notizia. Questo non toglie che c'è una situazione drammatica in Africa occidentale, io sono appena tornato dall'Africa orientale, sostanzialmente leggermente migliore nell'investimento sui servizi sanitari, però è altrettanto vero che quello di cui c'è bisogno è di un'attenzione da parte dell'Occidente nei confronti di una serie di malattie, perché io lo ricordo, la Sierra Leone è il paese che ha la più bassa aspettativa di vita nella nascita del mondo, con 42 anni, noi abbiamo 84 anni, questo prima di Ebola, si immagina un po'. Professore, solo due domande veloci delle tantissime che stanno facendo gli ascoltatori. È vero che l'incubazione dura 21 giorni e poi si avvicina la possibilità di trovare dei sieri o delle medicine che possano guarirle? Queste due domande. Questa è la la media va da 2 a 21 giorni, in realtà per la maggior parte delle persone l'incubazione, la malattia si manifesta tra i 7, gli 8 e i 10 giorni. E poi effettivamente questo ci consente di poter dire che è difficile che la malattia possa arrivare in Italia attraverso gli immigrati. Intanto la ringrazio professor Morrone, avremo tempo di risentirci su questo problema e grazie anche a Loris De Filippi. Grazie e buona continuazione. Grazie. A viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ora lo spazio europeo. Europa 24 notte. Parliamo della tratta degli esseri umani. L'Europa bacchetta l'Italia per la giustizia lenta, per l'assenza di un piano nazionale per debellare il fenomeno. Il primo rapporto sul nostro paese di Greta, l'organismo antitratta del Consiglio d'Europa, è molto severo con il nostro paese che, ad esempio, dal 2009 a oggi ha messo sotto processo migliaia di presunti mercanti di schiavi, ma ne ha condannati solo 23. Valentina Furlanetto ha intervistato la professoressa Paola Degani, esperta del tema e docente all'Università di Padova. Io ho fatto parte di una delle delegazioni che è stata ricevuta dal Greta. Oggi effettivamente la mancanza di un piano nazionale antitratta è una prova concreta del fatto che nel nostro paese probabilmente non c'è un'attenzione adeguata all'impegno che si sarebbe dovuto profondere nei confronti di questo fenomeno. Sono d'accordissimo con il giudizio severo del Consiglio d'Europa, tengo però a precisare che i procedimenti per tratta in quanto tali sono esigui dal punto di vista numerico, perché oggi il fenomeno ha subito delle diversificazioni nella modalità canonica di estrinsecarsi, per cui da un punto di vista strettamente procedurale l'applicazione in sede giudiziaria di quelle fattispecie collegate alla tratta in quanto tale risulta essere estremamente difficoltosa. Faccio un esempio concreto. Oggi, piuttosto che un rinvio a giudizio per 601 codice penale, è molto più facile contestare, che sarebbe per la tratta? Sì, è molto più facile contestare lo sfruttamento sessuale di una persona. Così è per le attività agricole, così è per la fornitura di taluni servizi. L'Europa, secondo lei, sta facendo abbastanza? Ritengo che in questo momento vi siano delle posizioni da parte dell'Unione Europea critiche, almeno sul versante della tutela dei diritti dei migranti e anche sul versante del livello di impegno che agli Stati in questo momento è richiesto rispetto al trattamento di questo segmento migratorio che proviene via mare. Noi abbiamo una normativa europea complessa a riguardo in modo particolare i richiedenti protezione internazionale. Credo che ciò che va messo in discussione è il principio fondamentale del regolamento Dublino 2 e oggi regolamento Dublino 3, in base al quale il richiedente protezione internazionale deve chiedere protezione internazionale nel paese di primo accesso. Se noi andiamo a guardare i numeri così in senso assoluto, i numeri che l'Italia finora ha gestito, pochi mesi fa, non adesso, erano dei numeri in linea con l'andamento europeo dei maggiori paesi, faccio riferimento alla Francia, alla Gran Bretagna, alla Germania, eccetera. Oggi i numeri probabilmente sono più alti. Ciò che rende particolarmente difficoltosa la gestione di questa emergenza, perché adesso è tale, nel nostro paese, sono le modalità con cui queste persone arrivano, la tipologia di persone che arrivano e obiettivamente il fatto che queste persone arrivano in stragrande maggioranza su una frontiera che è quella sud, e la frontiera sud via mare sappiamo che segna dei drammi che sono sotto gli occhi di tutti. Europa 24 notte in collaborazione con Euronet Plus. Stavo leggendo un altro vostro messaggio sulla pagina Facebook di Effetto Notte di Arturo su Ebola, dice: forse non capita a caso ora che la stabilità mondiale è in bilico, il terrorismo avanza, l'esodo di interi popoli è fuori controllo, dice non è casuale, potrebbe sembrare dietrologia perché poi in realtà ci diceva il professore, avete sentito, che si conosce dagli anni 70 questa malattia che è sempre stata tenuta purtroppo sotto gamba dall'Occidente. Bene, direi che a questo punto bisogna proprio fermarsi qui, sapete che ritorno dopo a ricordarvi i titoli, per il momento pausa.